Sì, abbiamo colto subito l'invito dei compagni della GKN e dei Fridays for Future perché pensiamo sia importantissimo in questo momento porre anche l'accento su il ruolo che hanno le politiche agricole nella crisi ambientale e climatica che ci troviamo ad affrontare quotidianamente. Ci troviamo in una situazione in cui le politiche locali, nazionali e sovranazionali incentivano un tipo di agricoltura industrializzata, capitalista, che è una delle fonti primarie, no, della devastazione dell'ambiente, ambientale ma anche sociale, no? A cui assistiamo tutti i giorni. Quello che promuoviamo noi è un tipo di agricoltura diversa, ecologica, sostenibile, la nascita e lo sviluppo di piccole realtà agricole contadine. Quello che chiediamo alle amministrazioni è appunto di agevolare la nascita e lo sviluppo di queste realtà, perché sono, diciamo, la chiave, no? Per uscire da questa crisi climatica e andare incontro a una vera transizione ecologica che ormai non è più procrastinabile.